Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia, e come ampiamente annunciato siamo, come ogni anno, in diretta dal Vinitaly, quindi la più importante manifestazione del vino a livello italiano e anche a livello europeo. Si contende il primato con Bordeaux. Per chi volesse venire a trovarci, siamo al padiglione 11, stand G4, G5, ospiti del Consorzio Vini d'Abruzzo. Parleremo di un settore, lo dico subito, che rispetto agli altri settori produttivi di cui raccontiamo e trattiamo ogni giorno se la cava piuttosto bene, più 7% il fatturato, molto bene l'export, i ricavi sono andati sopra i livelli precedenti alla crisi, quindi più 20%, ma un settore che, come immaginabile, soffre anch'esso e molto dei consumi interni calati nel corso degli anni per un cambiamento culturale. Si beveva e si è bevuto sempre meno vino, ma di qualità sempre più alta, mentre negli ultimi quattro anni assistiamo a un calo dovuto essenzialmente. Questo è il tema di apertura. È chiaro che tratteremo anche quello che è successo nel fine settimana, il decreto del governo per ritornare parte dei 90 miliardi che le imprese attendono come crediti arretrati da parte della pubblica amministrazione, e lo sblocco dei famosi 40 miliardi, le numerose polemiche che però la decisione del governo ha suscitato. Sintetizzo subito: definita troppo ragionieristica, troppo complicata, troppo burocratico il modo per arrivare a questo rimborso. E tra l'altro oggi Confindustria ha lanciato una campagna che si concluderà con il convegno del prossimo venerdì a Torino, il convegno biennale organizzato dalla piccola industria di Confindustria, saremo in diretta anche da Torino. La campagna "Tempo scaduto, è l'ora di agire", ogni giorno perdiamo un pezzo d'Italia e della nostra industria. Appunto, il convegno poi sarà il 12 e 13 aprile a Torino. È un vero e proprio allarme rosso quello che lancia e ha lanciato Confindustria. Ce ne occuperemo nella seconda ora del programma, dicevo, anche perché il Presidente della Repubblica Napolitano ha firmato il disegno di legge sui debiti della pubblica amministrazione. Il decreto legge è 0804-2013, reca disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Da domani, oggi il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da domani potranno partire i primi pagamenti. Per questa prima fase, che si concluderà a fine aprile, sono previste risorse per 2,3 miliardi. La compensazione che noi, e non solo noi chiaramente, auspicavamo, mi riferisco al fatto di poter andare in credito d'imposta, cioè se un'impresa vanta 100.000, 1 milione di euro di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, che sia l'ente locale o che sia la ASL, che sia la regione o lo Stato, dovrebbe poter portare questo in credito di imposto, cioè dedurlo dalle tasse che deve pagare. Questa possibilità scatterà, il meccanismo di compensazione, dal 2014 fino a crediti che potranno arrivare al massimo a 700.000 euro, e di questo, ripeto, parleremo, anche perché la dialettica tra il ministro Grilli e il ministro Passer è stata intensa. C'è chi dice si poteva fare un qualcosa di meno complicato, di meno burocratico e ragionieristico. Per quello che riguarda la borsa, che resta uno dei nostri temi fissi, più 0,14% in questo momento Milano, più 0,26% invece Parigi, più 0,16% Francoforte, e l'America meno 0,25% in questo istante, con un euro a quota che è risalito a quota 1,30 sul dollaro. Intesa San Paolo, il miglior titolo, più 1,80%, Generali più 1,50%, Campari più 1,30%, Tods più 1,20%, A2A più 1,1% ed Eni più 1%. Chi perde molto oggi? Pirelli meno 6,30%, Ubibanca meno 2,70%, Monte dei Paschi meno 2,50 come Mediolanum, Buzzi-Unice meno 2,1 come Mediobanca, meno 2% lo fa Finmeccanica, l'1,90% è il calo di Telecom Italia, l'1,5% quello del Banco Popolare e anche di Azimut. Chiudiamo con la Popolare di Milano che perde invece l'1,26%. Di Pirelli parleremo, paga in sostanza l'annuncio fatto venerdì scorso dello slittamento a novembre del nuovo piano industriale che era previsto invece per maggio. Il tutto nel giorno in cui, come sapete, è scomparsa Margaret Thatcher. Comunque uno la possa pensare, è stato uno dei più grandi leader del Novecento, ha cambiato un paese con ricette liberiste che alcuni possono condividere, altri no. Celebre il suo motto: non esiste la società, esiste l'individuo. E lo stesso premier britannico Cameron ha detto: ha salvato la Gran Bretagna. Devo dire che ha preso una Gran Bretagna completamente stagnante, paralizzata anche da veti incrociati, sindacati e corporazioni, e ne cambiò le vesti. Era un paese in declino industriale, lo trasformò nel paese più avanzato in Europa in questo momento sul fronte dei servizi e della finanza, chiaramente liberalizzando tutto il possibile. Tra l'altro famosa è la storica contrapposizione con i minatori, Scargill mi sembra che si chiamasse il leader dei minatori gallesi, una contrapposizione che durò intere settimane e che alla fine vide vincere il governo britannico, nonostante la fortissima capacità di lobby, di pressione e di manifestazione che dimostrano i minatori, ripeto, soprattutto gallesi. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. E allora restiamo in tema di estero, perché al di là della scomparsa appunto di Margaret Thatcher, oggi abbiamo avuto notizia da un lato dal Portogallo, che ha lanciato un drastico piano di tagli alla spesa pubblica, lo ha annunciato ieri in serata, e è arrivato oggi anche il monito della Commissione Europea che chiede al Portogallo di rispettare tutti gli obiettivi che si era data. E per quello che riguarda invece Cipro, oggi si è saputo che Cipro ha bisogno di 75 milioni di euro, non è una cifra enorme, comunque ha bisogno di 75 milioni di euro per evitare il fallimento e scongiurare il rischio di non poter pagare gli stipendi e le pensioni dei dipendenti pubblici. Il deficit di cassa, ha spiegato il tesoriere Rea Giorgiu, il deficit di cassa ad aprile è pari a 160 milioni di euro, 85 milioni in riserve non sono sufficienti, abbiamo bisogno di un importo equivalente per evitare un vero e proprio fallimento. E ancora per quello che riguarda invece l'Italia, lo volete sapere com'è lo spread oggi? Beh, lo spread è stabile, quindi il BTP a 10 anni rispetto all'equivalente tedesco, c'è una differenza di 310 punti, il 3,1%, il rendimento dei nostri BTP a 10 anni al 4,32%, ma la discesa dello spread e dei rendimenti deriva soprattutto dai forti acquisti che sono arrivati dal Giappone, innescati da quella che è una vera e propria guerra che il Giappone ha lanciato contro la stagnazione economica, e quindi una nuova ondata di politiche espansive e aumento della liquidità avviata dalla banca centrale giapponese. In Italia il dato diffuso ieri in tarda serata: oltre 1 milione di licenziamenti in un anno. Sta tutto in questa cifra, la dimensione della crisi dalla quale l'Italia stenta ad uscire e che si sta scaricando tutta sul mondo del lavoro. A fornire i dati è stato lo stesso Ministero del Welfare. Secondo quanto si evince guardando i risultati dei 4 trimestri del 2012, quando tra l'altro hanno cominciato a dispiegarsi gli effetti della riforma Fornero con la modifica dell'articolo 18, i licenziamenti hanno superato quota 1 milione, più 14% rispetto al 2011, cioè c'erano stati 900.000 investimenti nel 2011, ce ne sono stati 1.027.000 nel 2012, con una virulenza, una parte più forte negli ultimi tre mesi del 2012. Hanno raggiunto il livello massimo 329.000 licenziamenti solo negli ultimi tre mesi del 2012, un più 15% rispetto al 2011. È una cosa che fa sensazione, perché le varie organizzazioni umanitarie non profit, le abbiamo già raccontato, in Spagna, in Gran Bretagna si sono mosse e si muovono a questo punto in paesi occidentali, in paesi ricchi. Ebbene, Emergency si prepara, che è una delle più importanti organizzazioni non profit a livello mondiale, si prepara ad ampliare il programma Italia, aprendo due nuovi poliambulatori a Polistena, Reggio Calabria e a Napoli, e sta allestendo anche due nuovi ambulatori mobili. E volete sapere della normativa sul pagamento? Ne parleremo dalle 18 in poi, ripeto, sbloccherà complessivamente 40 miliardi di euro in due anni, ci sono un po' di dubbi sui meccanismi. Vorrei però iniziare con il nostro primo tema, e quindi chiaramente essendo anche quest'anno a Vinitaly, con il Vinitaly, e parlare appunto di un settore che, nonostante tutte le difficoltà, è un settore che si muove ancora bene e registra dei numeri sicuramente diversi da quelli di altri settori produttivi. Sono 4.200 gli espositori presenti, aziende che vengono da e produttori di vino che vengono da 22 paesi, oltre a buyers, delegazioni ufficiali, 43 nazioni, per la prima volta appunto il Ministero del Commercio cinese, attesi qui a Verona oltre 140.000 visitatori per la 47esima edizione di Vinitaly. Dicevo che è un settore che comunque si è mosso meglio di tanti altri settori produttivi, la nostra scheda. Crescono fatturato, occupazione ed export. La fotografia alle nostre grandi imprese vinicole l'ha scattata, come d'abitudine, l'ufficio studi Mediobanca, con l'indagine sui bilanci delle 108 principali aziende vinicole made in Italy. Ciò che emerge è un settore in salute. Nel 2012 il fatturato complessivo è salito del 7%, con la forte spinta dell'export, portando i ricavi del 20% sopra il livello pre-crisi. Tra vigne e cantine, bene anche l'occupazione, più 2,6%, e gli investimenti, in ripresa dopo il crollo del 2011. Solide poi le prospettive per il 2013. Quasi 9 grandi produttori su 10 escludono per quest'anno un calo dei ricavi. L'indagine Mediobanca contiene anche il raffronto sulla produzione mondiale. Ciò che emerge è che il secondo anno consecutivo di siccità ha portato a una flessione del 17% in Francia, dell'11% in Spagna e del 6,3% in Italia, con la produzione a 40,8 milioni di ettolitri. Un calo che ha comunque permesso al bel paese di tornare primo produttore al mondo davanti alla Francia. Non solo. L'Italia è in prima posizione anche come paese esportatore, con il valore delle vendite cresciuto del 6,5%, al record di 4,7 miliardi. A varcare i confini nazionali poco più di 21 milioni di ettolitri. In pratica, metà del vino prodotto in Italia viene bevuto all'estero. Con nemmeno 40 litri pro capite consumati dagli italiani, il futuro del nostro vino è quindi sempre più legato a mercati lontani, a cominciare dai nostri più grandi estimatori, gli Stati Uniti, dove le vendite di bottiglie tricolori hanno superato lo storico tetto del miliardo di euro. In luce anche il Canada, più 11%, mentre in Europa aumenti attorno al 5%, sempre in valore, in Germania e Regno Unito. Infine, incremento a due cifre in Cina, più 17% e Giappone più 28%. Frenate invece per l'export in Russia, meno 15%. E allora questi numeri del settore, un settore che forse è unico o raro in questo paese, non conosce crisi, perlomeno non la conosce come altri settori produttivi, e il vedere un fatturato che comunque sale del 7% complessivamente è cosa abbastanza rara in questo periodo. Dicevamo che ha preso il via ieri, domenica, la 47esima edizione di Vinitaly, più di 4.200 espositori, aziende provenienti da 22 paesi al mondo e buyers e delegazioni ufficiali da 43 nazioni, tra cui per la prima volta vi sarà il ministro del commercio cinese. Attesi oltre 140.000 visitatori, ne parliamo come facciamo con ogni anno, con chi ci ospita, ossia l'ente Fiera di Verona, il presidente Ettore Riello, buonasera. Buonasera a tutti. Quest'anno voi avete anche avete avuto la concorrenza tedesca di ProWine e poi avrete anche Vinexpo, quindi Bordeaux. Quando ci sono saloni così importanti a fare concorrenza a Vinitaly, qual è la vostra strategia? Beh, credo che come sempre ci sia una grande sensibilità verso il mondo estero, quindi la partita viene giocata proprio nella capacità di poter costituire una ricchezza sull'incami fatta di interlocutori, buyer interessati a portare in giro per il mondo il prodotto italiano. Devo dire che questo tutto sommato abbiamo anche un certo favore, perché soprattutto i nuovi mondi, sud-est asiatico, Sud America, eccetera, hanno una sensibilità tutto sommato abbastanza positiva nei nostri confronti, quindi del prodotto italiano. Gli elementi di criticità, poi arriveremo ai punti di forza, ma insomma, per non fare una puntata solo su quanto è bravo, sono bravissimi i produttori di vino e quanto poco sente la crisi il mondo di vino, gli elementi di criticità, perché negli anni scorsi abbiamo ragionato anche con lei di un calo continuo, anche se non drammatico, della domanda interna, dei consumi interni, sia per fenomeni culturali in questo caso che per la crisi economica, e il vostro obiettivo era portare Vinitaly sempre più sui mercati che stanno crescendo. Beh, la preoccupazione seria è che quei numeri, che sono numeri buoni oggettivamente, quindi fanno partire da una base, dico, positiva, in realtà vengono fatti tutti all'estero, dove il mondo è più competitivo, dove anche, diciamo, la struttura dei costi è molto più elevata, quindi oggettivamente è un obiettivo corretto da perseguire, ma certo che la carenza del mercato italiano sta cominciando a pesare non da poco. Quindi io non starei così sereno e serafico su quelli che sono questi numeri, che sono dovuti a un grande sforzo che viene fatto dai produttori di vino, ma che però non gli stanno dando quelle risorse necessarie per effettuare i corretti investimenti. Quindi io vorrei più che altro sollevare un punto di attenzione a questo, perché noi abbiamo un mercato in difficoltà, un mercato terribilmente aperto a tutto il mondo estero, dove, dico, i nostri produttori ogni volta, dico, che si trovano ad andare all'estero hanno mille regole da rispettare, e noi siamo il mercato più aperto. Forse un po' più di regole sarebbe molto più opportuno mettere in campo, così come al tempo stesso forse giocare una partita in una roba ben diversa, perché vedere come si muovono gli amici francesi credo che lasci, dico, molto a mano in bocca. Ecco, i francesi sono dei maestri però anche nella parte dell'organizzazione, diciamo, fieristica. Allora, su questo noi sappiamo che negli anni scorsi vi è stato un grosso dibattito qui a Verona sull'accessibilità alla fiera, parcheggio e quant'altro, oltre che sulla ricettività alberghiera, ma quello, diciamo, dipende meno chiaramente dalla fiera. Ecco, che tipo di investimenti avete fatto voi? Perché 4-5 anni fa alcuni produttori si lamentavano di un Vinitaly troppo simile a se stesso e, insomma, in cui si dava per scontato sostanzialmente quello che era l'importanza della manifestazione senza grandi investimenti per la fiera. Quello che sta nel cuore, diciamo, nelle possibilità della fiera è stato fatto, perché abbiamo sistemato i parcheggi, non sono ancora insufficienti perché avremo bisogno di 20.000 posti, quindi noi possiamo, dico, rappresentarne, dico, una disponibilità fino a 14-15.000, e il resto dobbiamo un po' arrangiarci alla meno peggio. D'altro canto sono numeri veramente particolari questi. Per quanto riguarda i padiglioni, abbiamo completato l'investimento e credo che anche questo rappresenti, dico, una buona opportunità di semplificazione di tutti gli accessi al nostro quartiere. Credo che il punto più serio e più importante su cui ora dobbiamo investire, e cosa che stiamo facendo, è proprio, dico, la possibilità di poter accompagnare questi espositori verso il mondo estero. Quello, dico, è il grande goal, perché, dico, fare una bella fiera in casa è utile e importante, ma di più io devo costruire un progetto per portare, dico, il mio vino in giro per il mondo. E qui arriviamo all'ultimo aspetto, cioè Vinitaly vuole diventare, tra virgolette, non più una fiera ma un veicolo, per, e voi avete iniziative anche in Asia, in India, per cui chi partecipa al Vinitaly poi segue, diciamo, Vinitaly come marchio, come brand, anche in altri mercati esteri? Beh, questo credo che ormai è un progetto che ha preso i suoi primi passi, stiamo facendo una bella partnership a Hong Kong come porta verso il sud-est asiatico, in particolare verso la Cina. Abbiamo fatto un investimento in Brasile, direttamente nostro, mirato ad alcuni prodotti, parte con il marmo, ma sicuramente, dico, è una piattaforma aperta a tante opportunità. Ma la nuova frontiera su cui ci stiamo muovendo con grande determinazione è l'e-commerce, con cui invece, dico, possiamo ottenere un grandissimo risultato di raggiungere tutte le tavole del mondo nel modo più facile. Abbiamo lanciato un progetto che è il Vinitaly Wine Club, che è proprio, dico, uno strumento, dico, di e-commerce con cui, dico, per primo promuoviamo in tutto il mondo il vino italiano. Il primo anno cominceremo anche la vendita sul solo, dico, territorio italiano, perché c'è un problema di logistica. Ecco, credo che questo sia un pacchetto straordinario che sotto il brand di Vinitaly possa rappresentare, dico, per il sistema italiano, dico, dei produttori di vino, una grandissima opportunità. Presidente, in bocca al lupo. Per inciso, la manifestazione Vinitaly va bene, lo sappiamo, ma anche le altre tre grandi manifestazioni della fiera, mi riferisco alla Cavalli, all'Agricola e a Marmo Mac, hanno conosciuto qualche difficoltà, soprattutto il marmo forse. Ma no, devo dire, il marmo l'ha avuta negli ultimi anni, invece ha ripreso con molta determinazione, quindi sostanzialmente questi due prodotti, il Vinitaly e il marmo Mac, sono assolutamente, dico, di ottima qualità e performance in questo momento. I Cavalli sta recuperando molto bene, è un mondo, dico, che ha delle difficoltà, perché da quando è venuto meno, dico, la sensibilità sul mondo delle scommesse, anche duole di vedere, dico, tutti questi ippodromi che vengono chiusi, certo, uno dopo l'altro. Ecco, quindi il problema tutto sommato non è così evidente in questi prodotti. Certo, c'è una bella crisi, è una crisi che tocca e sta cominciando a toccare anche il sistema fieristico, quindi credo che bisogna essere tutti un po' sensibili, perché la fiera è in realtà un bel prodotto, dico, di politica industriale del paese. Grazie al presidente della Fiera Verona, Ettore Riello. Grazie, arrivederci, buonasera a tutti, grazie, venite al Vinitaly, vi aspettiamo. E grazie quindi al presidente, di nuovo, Ettore Riello della Fiera di Verona, mentre ci ha raggiunto qui nei nostri studi, che lo ricordo ancora una volta, sono al padiglione 11 G4 G5, ci trovate nel Consorzio Vini d'Abruzzo, ci ha raggiunto, dicevo, il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, voi come Confagricoltura avete anche il mondo vitivinicolo, ma chiaramente avete tutto il mondo agricolo. Vorrei non restare solo o soprattutto sul vino, ma sui temi più generali. Primo tema, molto rapidamente, la legge 62, quella sui pagamenti entro 60 giorni che l'Italia ha recepito come legge europea, sta creando qualche problema ai vostri associati, o meglio nel loro rapporto tra produttore vinicolo e ristorazione. Sì, sta creando qualche problema. È una norma, l'articolo 62, che il mondo agricolo ha sicuramente voluto e che però deve essere adattato sicuramente alle diverse filiere. Occorre quindi non aver paura di mettere mano ad un articolo che è importante per tutto il settore e non fermarsi su un principio di affermazione dell'articolo così com'è. Proprio dai giri che ho fatto qui in fiera emergono diversità di posizione e quindi, se vogliamo aiutare i produttori, soprattutto anche nella proiezione internazionale, ci tocca mettere mano anche all'articolo 62, che deve certamente rimanere. Voglio però ricordare che l'articolo 62 non è solo norme di pagamento. Nell'articolo 62 c'è l'obbligo di contratto scritto, ci sono le norme sulle scontistiche, sulle pratiche sleali e sono tutti temi che invece devono rimanere. Ecco, dall'articolo 62 cambiamo rapidamente tema, perché il mondo dell'agricoltura attraversa anche una fase molto delicata sui mercati esteri. Voi avete realizzato, proprio per il Vinitaly, un'iniziativa in cui sostanzialmente è andata a creare un ponte d'unione, un trade union con il mercato russo? Sì, è così, perché lo riteniamo un mercato molto promettente, un mercato difficile, difficile per motivi tarifari e non tarifari, un mercato però assolutamente interessante. Lo scorso anno, in decrescita però, un po' sopravanzati dai francesi, l'Italia ha realizzato 135 milioni di euro, una frazione minimale di quello che potrebbe essere un mercato aggredito in una maniera strategica. E quindi creare incontri B2B al Vinitaly con i buyer russi serve a fargli conoscere le nostre produzioni e a far conoscere i nostri produttori cos'è il mercato. E qual è il vostro ruolo in questo? È di trade union, proprio di creare un ponte tra le due realtà. Questo lo facciamo naturalmente non per le grandi case che, su cui siamo assolutamente a disposizione, ma quei piccoli produttori che oggi hanno bisogno di un accompagnamento per poter arrivare sul mercato internazionale. Oggi il mercato domestico, che va comunque presidiato, è un mercato troppo limitato per i nostri prodotti. Grazie anche al presidente di Confagricoltura Guidi. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi torniamo in diretta per parlare ancora di vino, ma con i produttori, poi la borsa e poi il rimborso dei crediti che le imprese vantano. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora di nuovo in diretta dal Vinitaly, dalla regione Abruzzo, che ci sta ospitando, padiglione 11 per chi venisse a venire a trovarci, stand G4/G5, per parlare di un settore che non piange, come ricordavano prima il presidente del Vinitaly Ettore Riello e il presidente di Confagricoltura Guidi, e che però qualche criticità ce l'ha, anche perché immaginare che un settore come quello del vino possa basarsi esclusivamente sull'export o reggere solo sulla domanda esterna ed estera è difficile. Giro, è chiaro che il fatturato è cresciuto del 7%, sostanzialmente i ricavi dell'intero settore, come ricordava la nostra scheda, ossia il rapporto Mediobanca, sono a questo punto del 20% sopra il livello pre-crisi, e quindi un settore che è già ritornato complessivamente ad andare molto meglio di quando è scoppiata la crisi. Ripeto, i numeri ci sono, ma il mercato interno continua a soffrire. Lamberto Gancia è presidente di Federvini, quindi unisce produttori in quella che è, diciamo, la Confindustria del vino. Si può vivere di solo export? Beh, chiaramente no, anche perché l'export vive grazie al fatto che i nostri territori sono vincenti, unici, e vengono molti stranieri anche a scoprirli. È chiaro che il messaggio molto positivo è che per la prima volta al mondo, nel 2012, il consumo mondiale del vino aumenta rispetto a quello che è la produzione, quindi si compensa la produzione, la domanda con l'offerta. Questo dà dei buoni auspici per i nostri produttori che possono conquistare i mercati internazionali. Il problema è che il mercato italiano è oggi a 39 milioni di ettolitri pro capite, in 10 anni si è più che dimezzato, in 30 anni ancora di più, e questa ormai è una tendenza chiara. Bisogna quindi anche ripartire dal mercato nazionale, e in questo ci sono secondo me tante leve che si possono ancora utilizzare. Una di queste è cercare di essere più attenti alla burocrazia che c'è intorno al vino, rendere più snelle le procedure, aiutare le imprese a competere facendo squadra, e soprattutto anche stare molto attenti a quelle che sono le manovre che possono penalizzare il nostro settore. E adesso ci arriveremo, anche perché ce n'è una in particolare che sì, tutti temiamo, ma vorrei restare ancora per qualche istante sul tema dei consumi interni dell'export, perché voi come settore del vino avete fatto nel 2012 4 miliardi e 700 milioni di euro di esportazioni, che è un record, e questo va riconosciuto a tutti i produttori. E il fatturato complessivo sono 10 miliardi ed è la voce più importante dell'agroalimentare italiano, però ci sono ancora 383.000 imprese, che detto così fa impressione. Sono 650.000 ettari per 700.000 addetti, sì. Allora forse anche è vero un milione che... e due di addetti, anche un milione e due, anche un milione e due. Allora un milione e due è vero con l'indotto, sì, primario, come lo chiamate voi, e oltre un milione di etichette. Allora io non voglio male a nessuno, però anche nel vostro settore un po' di, in qualche modo, consolidamento e quindi aggregazioni sarebbe utile. È vero che molti sono consorzi e hanno già fatto qualcosa, però sono tanti, 383.000 imprese. Eh sì, anche 525 tra DOCTI, OCG, GT, sono tutti territori con disciplinari. Secondo me ci sarà una selezione naturale che porterà proprio nei momenti di crisi aziende a lavorare insieme. Merger acquisition si sono viste e ci sono. Certo, il paese Italia deve essere appealing per questo tipo di operazioni. Però pensare di smontare il sistema molto polverizzato della piccola proprietà territoriale italiana che porta tutte queste 350 passamila imprese, non lo vedo sul breve una soluzione fattibile, anche perché c'è un ritorno alla campagna, c'è un ritorno ai valori del territorio, e sarà solo la selezione naturale che porterà alla diminuzione. Accennavamo però al dato sui consumi interni, visto che non potete vivere di solo export, per quanto siate ben messi rispetto, o meglio messi rispetto a altri settori produttivi. A giugno abbiamo sventato quello che io chiamavo le tre streghe, perché doveva aumentare esserci l'IMU, la nuova TARES, TARSU, come dir si voglia, e anche l'aumento dell'IVA. Per quello che riguarda l'imposta sui rifiuti, l'aumento dell'imposta sui rifiuti slitta a dicembre, di streghe ne restano due, IMU e IVA. Soprattutto sull'IVA, anche se l'IMU dal punto di vista agricolo ha avuto più di un impatto negativo, però voi temete che un altro punto percentuale porti una depressione ulteriore dei consumi? Noi non è che lo temiamo, è una certezza. Cioè, noi ricordiamo che Federvini fa parte di Federalimentare, di Confindustria, e con Federalimentare abbiamo fatto squadra per tutto l'alimentare, per dare un segnale forte sia a Confindustria che al governo, che un aumento dell'IVA porterebbe un forte danno a un comparto che ha molta sensibilità, perché noi abbiamo il consumatore ogni giorno che consuma i nostri prodotti. Su questo è importantissimo. Tutte quelle che oggi sono tasse, anche la tassa sull'alcol, sul junk food, quindi tutto quello che va a toccare in questo momento il nostro prodotto, che ha già ha delle sue regole ben precise ed è vincente in Italia e nel mondo, non può che far altro che massacrarlo se si va ulteriormente a toccare queste leve. Allora, adesso abbiamo le informazioni sul traffico, poi vorrei sentire anche il presidente del gruppo Zonin, Gianni Zonin, sul tema dell'IVA, però ti ripeto dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Nuovo in diretta dal Vinitaly. Allora, dicevo, alla luce anche di quello che ci ha appena commentato il presidente Federvini, Lamberto Gancia, Gianni Zonin, lei presiede un gruppo, è anche presidente della Banca Popolare di Vicenza, però in questo caso la vorrei come produttore di vino. Presiede un gruppo che ha sostanzialmente 140 milioni di fatturato, più 13% l'anno scorso. Avete fatto un export che ormai tocca il 75%, 25 milioni di bottiglie, siete presenti in 102 paesi. Arriveremo poi alle varie composizioni della domanda interna, ma sul tema dell'IVA, insomma, Gancia è molto molto preoccupato. Secondo me stiamo ammazzando il mercato italiano. Qualche anno fa avevo scritto una lettera al presidente, allora Berlusconi, pregandolo di dimezzare l'IVA dal 20% al 10% per sostenere i consumi del vino, che da 40 anni continuamente ogni anno scendono. Noi 40 anni fa consumavamo più di 100 litri di vino pro capite in Italia, adesso siamo scesi sotto i 40 litri. Quindi questo ulteriore aggravio dell'IVA non fa che penalizzare un settore che si sta salvando solo grazie agli sforzi che stanno compiendo i produttori, i bravi produttori di vino italiano, che in tutto il mondo esportano il proprio vino. Però non è possibile continuare così. Noi dobbiamo spingere l'economia e dobbiamo salvaguardare i consumi, altrimenti andiamo verso la catastrofe. Su questo mi sembra molto netto il suo giudizio: si sta ammazzando il mercato italiano. Oddio, una contrazione nei consumi era anche dovuta a fenomeni culturali, e ci può anche stare, uno beve meno ma beve meglio. Il problema è non iniziare a bere meno perché non ci arrivi a fine mese, e questa è la differenza. C'è un fenomeno nel fenomeno che è rappresentato anche quest'anno dai numeri che arrivano dal Prosecco e in generale dalle bolle italiane. Anche voi voi siete presenti in varie regioni italiane: Friuli, Toscana, Sicilia, chiaramente Veneto, forse non ho dimenticata qualcuna, ma avete puntato anche voi molto sul Prosecco. Come mai? Lei si sarà chiesto perché all'estero improvvisamente Prosecco e bolle italiane fanno concorrenza seria, fanno male veramente alle storiche bolle francesi? Ma io credo che il vino è sempre un fenomeno di moda. Il fenomeno del Prosecco è nato circa 12 anni fa, è esploso perché si producevano in Italia allora 250.000 ettolitri all'anno di prosecco e in 10 anni è aumentata del 1000% la produzione. Oggi siamo a 2,5 milioni di ettolitri e stiamo portandoci ai 3 milioni. Allora in 10 anni è diventata la più grande denominazione ad hoc nel mondo e in 10 anni è decuplicata la produzione. È un fenomeno che è dovuto alla scoperta di giovani di questo vino, giovane, fresco, fruttato, con un rapporto qualità-prezzo straordinario e che, complice anche la crisi dell'economia, ha spostato alcune tipologie di consumi verso un vino che io trovo eccezionale. Ma il fenomeno è che, più importante, è che non è solo che per l'Italia, ma in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, al Brasile, alla Germania, quindi una crescita continua in quasi tutti gli stati del mondo. Questo è una conferma che secondo me questo successo continuerà ancora per qualche anno. Noi ce l'auguriamo per spirito nazionalistico, superare i francesi, diciamo, a noi fa solo che piacere. Presidente Zunin, veniamo al suo doppio ruolo però anche come Presidente della Popolare di Vicenza. Allora, restando anche solo all'interno di quello che è l'industria del vino, anche se non deve far pensare male un termine del genere, qual è il problema più grosso? Perché Mario Draghi 2 settimane fa in conferenza stampa alla BCE ha detto dobbiamo riuscire a risolvere il problema del mancato flusso di credito che noi trasmettiamo alle banche e che però le banche non riescono a trasmettere agli imprenditori e comunque al tessuto produttivo. Se vuole limitiamoci anche semplicemente al settore vitivinicolo, che comunque è un settore che ha bisogno di grossi investimenti nel medio e lungo termine, perché un vino, tra quando decidi di metterlo in produzione, di piantare le vigne e metterlo in produzione, passano degli anni, addirittura 10 anni. Allora, qual è lei che riesce, che può mettersi 2 casacche da questo punto di vista? Quando lei va a chiedere un prestito, diciamo tra virgolette, a se stesso, qual è l'errore che non farebbe? Dall'altra parte, qual è l'errore che fa il banchiere nel contrarre l'erogazione di credito? Beh, normalmente gli errori si fanno quando si costruiscono le cantine, non quando si piantano i vigneti. Cioè, hanno speso troppo per cantine designer? Qualche volta succede che ci si entusiasma e poi non si controllano più i costi, mentre per l'impianto di un vigneto, voglio dire, si sbaglia poco. E quindi è una spesa molto più tranquilla. Devo dire che i produttori italiani hanno saputo rinnovare il vigneto Italia e questo ha consentito di ottenere un miglioramento qualitativo straordinario, che è forse la causa per cui abbiamo avuto questo successo straordinario nell'esportazione dei nostri vini. Una crescita della qualità dovuta all'investimento negli impianti. Le banche fanno il loro lavoro. Cosa fanno le banche? Le banche per mestiere prestano quattrini, noi viticoltori per mestiere vendiamo il vino, ma le banche prestano i quattrini, quindi credo che quando possono e quando hanno una sufficiente tranquillità il prestito lo fanno volentieri. Ci sono dei fenomeni a livello mondiale, ci sono delle crisi dell'economia, ci sono delle crisi di liquidità, c'è un controllo continuo da parte dell'organo di vigilanza perché vengono impiegati i quattrini in un modo conforme alle regole, e questo porta anche a un rallentamento o un irrigidimento dell'offerta di impieghi da parte delle banche. Io posso parlare solo per la nostra banca, la Banca Popolare di Vicenza, che negli ultimi 5 anni ha erogato impieghi il triplo della media nazionale delle banche. Quindi il nostro istituto, la Popolare di Vicenza, ha fatto il suo dovere nei confronti non solo di viticoltori e di produttori di vino, ma nei confronti di tutti gli imprenditori nei territori in cui operiamo, e ormai operiamo in quasi tutta Italia. Noi continueremo su questa strada. È evidente che la trasparenza nei bilanci e l'investimento anche con mezzi propri nelle aziende sono fondamentali per aiutare le banche a essere più attente nell'erogazione del credito. Nel salutare, una cosa le chiedo, visto che appunto la Banca Popolare di Vicenza è una popolare, ma vale, è ancora di moda il modello del popolare o farete anche voi come la Milano, o meglio un SPA? Noi intanto abbiamo un vantaggio, che non siamo quotati. Ma magari vi quotate. Ma per il momento non ci penso nemmeno. quindi è una visione che non fa parte e non farà parte della mia presidenza nella Banca Popolare di Vicenza. I nostri soci sono contenti, l'hanno dimostrato, perché abbiamo aumentato gli impieghi, ma abbiamo aumentato la raccolta, abbiamo aumentato il numero di soci, siamo a 73.000 soci, abbiamo aumentato il numero di clienti, abbiamo 1.300.000 clienti, segno che c'è fiducia e stima nel nostro istituto, e noi continueremo in quella linea che abbiamo tracciato tanti anni fa e che stiamo perseguendo e che ha portato anche a risultati molto positivi. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal Vinitaly, dal padiglione 11 della Regione Abruzzo, e quindi G4, G5. Adesso però chiusa la parte riguardante il vino, domani torneremo a intervistare anche altri produttori, torniamo a temi più classici di questo programma, la borsa e poi il decreto del governo per ripagare i crediti che le imprese hanno nei confronti della pubblica amministrazione. Partiamo dalla borsa, che alla fine ha annullato tutti i rialzi, ha chiuso praticamente invariata, meno 0,05% Milano, e invariata anche Parigi e invariata anche Francoforte. L'America in questo momento invece perde lo 0,36%, borsa sia. Mentre comunque il mondo americano, della borsa americana, è scosso in senso positivo dalle voci di un'offerta per un miliardo di dollari è quello che Google avrebbe offerto per WhatsApp, che era l'app di comunicazione per gli smartphone, e sembra che la negoziazione sia già in stato avanzato. Dicevo, queste sono però notizie da un altro mondo. Da noi invece il Portogallo, e quindi il taglio drastico che il Portogallo ha dovuto fare alla sua spesa pubblica, ma anche il richiamo che è arrivato dall'Europa, riaprono scenari sulla tenuta dell'area euro, dei paesi più in difficoltà, penalizzando soprattutto le banche. C'è però un titolo che oggi ha perso più di altri, è il peggiore tra quelle maggiori capitalizzazioni, mi riferisco a Pirelli, meno 6,33%, e qui Pirelli paga l'annuncio fatto venerdì scorso. Chiedo conferma a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Sebastiano. È così, Pirelli ha annunciato lo slittamento della presentazione del piano industriale che era previsto inizialmente l'8 di maggio, il piano industriale verrà invece presentato a novembre, questo per una mancanza di visibilità soprattutto per quanto riguarda l'andamento del settore pneumatici in Europa e le sue evoluzioni. Questo ha fatto sì che il mercato si preoccupasse un po' più che dello slittamento in sé, naturalmente di quelle che sono le proiezioni nel secondo semestre, l'andamento del settore pneumatici, su cui già ci sono qualche dubbio sulla tenuta, diciamo così, dell'andamento sì. Previsto, e questo ha fatto sì che penalizzasse Pirelli con un meno 6%, ma anche il resto del settore, con Michelin, Continental, Nokian, che hanno pagato piuttosto pesantemente sui rispettivi listini. Male le banche, dicevamo, comunque Monte dei Paschi meno 3,50%, UbiBanca meno 3,20%, Mediobanca meno 2,5%, Mediolanum meno 2,40%, Popolare di Milano meno 1,90%, Banco Popolare meno 1,80%, Popolare Emilia Romagna meno 1,40%. Pesa il Portogallo? Sì, certamente questo è stato un po' l'elemento che ha fatto sì che gli indici europei fossero molto titubanti e molto cauti oggi. Le banche sono state tra i settori peggiori, l'indice europeo ha perso lo 0,75%, così anche le assicurazioni, mentre la gran parte degli altri settori ha tenuto. Per quanto riguarda le banche, un'eccezione sul listino milanese è quello di Intesa San Paolo, che invece ha ben guadagnato e non ha seguito la scia degli altri istituti. Intesa San Paolo, ha fatto bene a ricordarla, più 1,40%, bene anche Campari più 1,5%, A2A più 1,30%, e Generali più 1,20%. Qui ci sono voci di possibili cessioni. Sì, diciamo che il titolo oggi è arrivato a guadagnare anche il 2,5%, le indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore nel fine settimana di un'accelerazione nella vendita degli asset statunitensi della compagnia triestina, con già un paio di soggetti in pole position pronti a rilevare questi asset, hanno dato sostegno al titolo dopo una settimana abbastanza positiva per il titolo, ma oggi ha guadagnato l'1,1% nella prima seduta della settimana. Ancora tra i titoli Telecom Italia, il calo alla fine è dell'1,71%. Qui ci sono insomma presi di beneficio, il Telecom molto era salita dopo la conferma delle trattative con H3G, no? Sì, più 6% la scorsa settimana per Telecom, oggi è un naturale ritracciamento, anche se chiaramente ci sono case d'affari che aspettano di vedere le evoluzioni delle trattative confermate con H3G, nello stesso tempo sottolineano come il contesto competitivo, in particolare in Italia, per la presenza di soggetti come Wind dal punto di vista tariffario, è particolarmente impegnativo per Telecom. Quindi il titolo è stato penalizzato, ma certamente sono stati realizzi a prevalere. Invece poco mosso, invariato il titolo Impregilo, anche se oggi si è saputo che il gruppo Gavio, ne abbiamo parlato a lungo con lo stesso Pietro Salini, aderisce all'offerta pubblica lanciata da Salini, terrà Gavio il 2% del capitale, attualmente ne ha il 29,9% di Impregilo. Ancora invece sui titoli vorrei segnalare, tra l'altro l'OPE lancerà a 4 euro per azione, lo ricordo, il titolo oggi era 3,99 euro, per cui allineato all'offerta pubblica di acquisto. Chiudiamo con due titoli minori, da un lato Mer Tecnimont che più 7,30% oggi, dall'altro invece Moleskine che dal debutto insomma ha perso un bel po', oggi un altro 4,5% per le agendine storiche di Bruce Chatwin, però prodotte in Italia. Sì, per l'ultima matricola di borsa diciamo che i primi giorni non sono stati certamente positivi, dall'esordio il titolo ha perso circa il 17%, ci sono appunto valutazioni sul fatto che proprio il prezzo di collocamento 2,3 euro fosse un po' eccessivo e insomma il mercato non ha aspettato a far vedere la sua posizione su questo, e quindi il titolo è stato oggi penalizzato ancora con un meno 4,4%. Per quanto riguarda Mer Tecnimont, venerdì erano arrivati i risultati 2012, ma era arrivato soprattutto il progetto di ristrutturazione che tra aumento di capitale e rinegoziazione dei debiti ammonta a 500 milioni di euro e questo ha spinto il titolo, che ha guadagnato 7,3% oggi. Tra i migliori e i peggiori segnalo anche come migliori RCS, quindi gruppo Rizzoli sul risparmio più 6,45%, Premuda più 5,70%, Biancamano più 4,66%, fronte opposto invece oltre a Pirelli anche IKF meno 7,80% e Arena meno 4,76%. Grazie ad Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, il traffico e poi l'ultimo tema, i debiti della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto la campagna lanciata da oggi da Confindustria, che si concluderà come evento venerdì a Torino per il convegno biennale della piccola industria e Confindustria. Tempo scaduto, è l'ora di agire. Il traffico prima. Tempo scaduto, dicevamo, è l'ora di agire. Ogni giorno perdiamo un pezzo d'Italia e della nostra industria. Questa è la campagna che Confindustria ha lanciato sui principali quotidiani in vista del convegno della piccola industria il 12 e 13 aprile a Torino, e saremo presenti anche noi in diretta con Focus Economia, per dire che non c'è più tempo da perdere per l'Italia. Occorrono scelte immediate, forti e coraggiose per tornare a crescere, ripartendo dalle fondamenta delle imprese. L'allarme lanciato oggi anche da Alberto Barcella, presidente di Confindustria Lombardia, è in gioco la sopravvivenza stessa delle imprese che sono il motore della nostra economia. Secondo Barcella, anche se la Lombardia è la parte più rappresentativa e avanzata del paese, ci sono sintomi così gravi che non si può perdere un solo minuto. Lo ha intervistato la nostra Valentina Furlanetto, a cui Barcella ha indicato quelle che sono le priorità assolute per le imprese italiane. Ci sono delle urgenze che devono essere affrontate immediatamente. Una è quella del pagamento della pubblica amministrazione. Un passo avanti è stato fatto con i provvedimenti presi durante il weekend dal governo, anche se riteniamo che quantitativamente e anche temporalmente questi provvedimenti non riescano a dare piena soddisfazione alle esigenze delle imprese. Siamo ancora in attesa di vedere quali saranno i vincoli burocratici, gli oneri burocratici che graveranno poi sulla possibilità di accedere realmente a questi pagamenti. Secondo punto fondamentale è garantire la coesione sociale, che è un presupposto per qualsiasi politica di medio periodo di rilancio del Paese. Per fare questo bisogna garantire che gli ammortizzatori sociali abbiano sufficienti finanziamenti, in particolare la cassa in deroga. Terzo punto, molto sentito da tutte le imprese lombarde, ma direi nazionali, è il problema dell'accesso al credito, e noi chiediamo in particolare alla giunta regionale che ci sia un'attenzione particolare nei confronti dei Confidi, che sono uno strumento indispensabile soprattutto per le piccole e piccolissime imprese. Ci possono essere segnali di ottimismo? La situazione è difficile, non è difficile soltanto dalle ultime settimane, è difficile da parecchi mesi. Quello che ci preoccupa è che manca una guida politica che porti il Paese fuori dalle secche. E che manchi una guida politica è più che sicuro per portare il Paese fuori dalle secche. Tra l'altro anche il presidente degli industriali milanesi, che si riuniscono in Asso Lombarde, mi riferisco a Berto Meo Martini, sempre raggiunto dalla nostra Valentina Furlanetto, ha ribadito la determinazione delle imprese a superare questa fase di crisi, ma ha anche commentato le ultime decisioni del governo in materia appunto di rimborsi dei debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese. Il nostro sistema lombardo non demorde, continua a competere sui mercati, richiede la volontà di fare investimenti di lungo periodo che richiedono una visione e quindi una struttura istituzionale di governo, questo, su questo non c'è dubbio. Il decreto che è stato appena varato oggi in Gazzetta Ufficiale, in che maniera potrebbe venire incontro, può venire incontro alle imprese? Io non l'ho ancora esaminato nel dettaglio, mi sembra un po' farraginoso, forse anche necessariamente farraginoso, ma è certo che immette liquidità nel sistema, tende a ricreare condizioni di normalità, quindi è certamente positivo. Naturalmente dobbiamo vedere l'articolazione che si è fatta, noi ci aspettavamo delle risorse maggiori, però penso che sia utile. È un passo verso la normalità, insomma, quello di cui sostanzialmente abbiamo bisogno. E allora parliamo di questo decreto oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi da domani potranno partire i primi pagamenti. Per questa prima fase, che si chiuderà a fine aprile, sono previste risorse per 2,3 miliardi. Poi le altre due tappe che si chiuderanno a settembre. Da domani quindi saranno immediatamente eseguibili i pagamenti degli enti locali per appunto 2 miliardi e 300 milioni di euro. Entro il 30 aprile gli enti e le ASL, perché il 70% di questi debiti sono relativi alla pubblica amministrazione, gli enti e le ASL, dicevo che non sono relativi alla sanità, gli enti e le ASL che non dispongono di liquidità chiederanno accesso al fondo per i pagamenti. Entro poi il 15 maggio il Ministero dell'Economia autorizzerà i pagamenti da parte del fondo del Ministero, che ha per il 2013 una disponibilità di 26 miliardi di euro. Poi invece entro il 30 giugno gli enti locali comunicheranno il loro piano di pagamenti e poi entro il 15 settembre vi sarà il censimento completo dei debiti scaduti. Infine il 15 ottobre la legge di stabilità fisserà le modalità di rimborso di tutte le tranche invece per il 2014. Nel 2014 dovrebbe scattare anche il famoso meccanismo di compensazione, ossia il fatto che se un'impresa vanta dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione potrà scontarli dalle tasse che deve dare allo Stato, che sembrava il provvedimento più logico, più naturale, più semplice, meno burocratico. Comunque qualcosa si è mosso, anche se qui stiamo parlando in due anni di 40 miliardi, mentre ancora non abbiamo certezza su su quale sia l'ammontare complessivo. La Banca d'Italia lo ha certificato in 90 miliardi, ma poi l'ABI ha detto sono almeno 100 miliardi. Saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista, nonché editorialista del Sole 24 Ore, preside della Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, Alberto Quadrio Curzio. Buonasera. Buonasera. Allora, professore, mi dica una cosa, per Geta, piuttosto che niente è meglio piuttosto, dicono a Milano, no? Ma qui a me pare ancora incredibile che non si riesca a sapere quanto è lo stock complessivo di questo debito che lo Stato ha nei confronti delle imprese. Non è un po' troppo complicato, un po' troppo ragionieristico e burocratico tutto il meccanismo? Sì, entrambe le sue affermazioni sono condivisibili. Da un lato, che un paese moderno, come dovrebbe essere il nostro, non abbia ancora esattamente contabilizzato i debiti che le pubbliche amministrazioni hanno verso le imprese, ha veramente dell'incredibile. D'altra parte, le cifre che si susseguono stanno a dimostrare che è un incredibile credibile, nel senso che esiste, e quindi è veramente una situazione. Va bene, adesso faranno il censimento, ma questo censimento andava fatto ben prima, e dunque è pur sempre una indicazione di un sistema paese che non funziona. La seconda osservazione, questo meccanismo per la liquidazione dei debiti, così com'è configurato, è certamente complesso, richiede ulteriori approfondimenti per capire poi quale sarà l'efficacia, che si traduce in termini di rapidità, perché se questi rimborsi o questi, mi scusi, pagamenti avvengono in tempi diluiti, l'effetto si diluisce anch'esso. Quindi credo che dovremo approfondire nei prossimi giorni questa tematica per capire se poi questi 12 mesi sono mesi nominali o sono mesi reali. Ecco, professor Quadricurzio, su questo però lei citava il fatto che è un po' strano, per non dire singolare, che in un paese non si sappia quant'è che lo Stato complessivamente dato deve alle imprese. Ma un'altra cosa che a me ha fatto un po' impressione, cioè alla fine questi soldi si sono trovati, sono 40 miliardi in due anni, non è ancora, però senza grandi traumi e drammi, nel mezzo di una crisi cipriota con il Portogallo che di nuovo è sotto osservazione. Cioè è bastato, insomma, un accordo tra il vicepresidente Tajani e il commissario europeo Olli Rehn. Ora, la domanda, non voglio essere malizioso, ma non si poteva fare prima? Nel senso che se poi non c'è questo dramma, se poi non è che l'Europa ha solo chiesto che noi si resti sotto il 3% di deficit per chiudere la procedura di infrazione con l'Italia, non ha chiesto altro. Lo stesso Mario Draghi, presidente della BCE, ha detto che è una delle misure più efficaci che uno Stato può prendere per dare un'iniezione di ossigeno all'economia. Non si poteva fare un po' prima, no? Io penso di sì, e io ritengo che dalla seconda parte del 2012 il governo italiano avrebbe potuto essere molto più attivo su questo fronte, anche perché in questa seconda parte dell'anno passato era ormai evidente che la BCE aveva assunto una posizione di forte potenziale intervento a sostegno dei paesi che avrebbero potuto essere in qualche modo soggetti alle pressioni del mercato sui titoli di Stato, e questo dava molta maggiore autonomia ad un'azione e a una contrattazione del governo. Se poi il governo avesse fatto come quello spagnolo di chiedere un prestito al cosiddetto Fondo Salva Stati europeo, sarebbe stato ancora meglio. La Spagna si è preso un prestito da 100 miliardi e ne ha già incassati 40, ha ottenuto una dilazione molto significativa del rientro sotto il 3% del deficit su PIL dall'Unione Europea, e quindi alla fine si è posizionata molto meglio dell'Italia, che peraltro è molto più come dire, vulnerabile. Appunto. No, lo dico con un bel po' di rammarico, perché non so quanto avrebbe cambiato la situazione, però sicuramente male non avrebbe fatto. Essere partiti, come diceva lei, professore, da metà 2012, magari avrebbe attenuato, non dico migliorato nettamente, ma avrebbe attenuato il dato con cui abbiamo aperto oggi questo programma e con cui vorrei chiuderlo. E mi riferisco al dato diffuso ieri in serata dal Ministero del Welfare sui licenziamenti del 2012, perché sono stati 1.027.000 più 14% licenziamenti nel 2012 rispetto al 2011, dove già c'erano stati 900.000 licenziamenti. Ma la cosa ancora più preoccupante è che il grosso, la parte più virulenta di questi licenziamenti c'è stata negli ultimi tre mesi del 2012. 330.000 persone licenziate in tre mesi, vuol dire 110.000 persone al mese. Un dato drammatico, più 15% rispetto all'anno prima. Ecco, forse se si fosse partiti prima a rimborsare alcune imprese, forse qualche licenziamento in meno l'avremmo avuto. Professor Quadio Curzio, grazie a lei, e poi, come diceva, staremo a vedere se poi la parte burocratica non andrà a vanificare tutto lo sforzo compiuto. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia termina qui, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, sempre in diretta per la seconda e ultima volta di quest'anno dal Vinitaly. Radio 24, la passione si sente.